Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Appuntamento oggi con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e saluto con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Gianluca, siamo sulla notizia. Oggi è giovedì 1 giugno, primo giorno del mese, domani festa della Repubblica. Sì, allora noi ci siamo impegnati appunto nella nostra consueta indagine che facciamo ogni anno. Chiaramente è un'indagine che viene fatta tra i nostri soci, in questo caso abbiamo coinvolto circa 200 persone, non abbiamo pretese statistiche, però chiaramente anche questi questionari indicano delle tendenze ben definite, quindi possiamo essere abbastanza tranquilli anche su quello che dicono i risultati. Niente, da quanto possiamo vedere, insomma, questo ponte del 2 giugno è un ponte che verrà sfruttato in modo abbastanza diffuso dalle famiglie venete. In realtà una famiglia veneta su quattro, sempre secondo il nostro campione, ha deciso di andarsene via qualche giorno o una notte e due giorni o addirittura due notti e tre giorni, quindi insomma ha deciso di sfruttare questo weekend lungo. Di contro, Francesco, diciamo che tre famiglie su quattro non lo sfrutteranno, quindi insomma siamo ancora su cifre elevate, però noi registriamo anche un leggero incremento delle famiglie che se ne andranno via per più giorni, un incremento del 6% rispetto alla stessa indagine che abbiamo condotto lo scorso anno. Quindi diciamo che, Francesco, sicuramente la gente comunque ha bisogno di rilassarsi, molte persone possono contare sullo stipendio della fine del mese. È un buon 2 giugno come nel calendario, perché casca di venerdì e quindi insomma si può attaccare tranquillamente al sabato e alla domenica, e quindi diciamo che in linea di massima, secondo la nostra indagine, il 23%, quindi circa una persona su quattro, se ne andrà da qualche parte, dove come succede da un po' di tempo la netta preferenza è per le località italiane. L'83% del campione sceglierà appunto di stare nel bel paese. Per quanto riguarda i luoghi della vacanza in Italia, noi registriamo che un buon 53% sceglierà il mare, chiaramente anche per cercare un po' di refrigerio se possibile, e chiaramente noi vediamo che sempre nel nostro campione, quindi campione che prende in esame soci del Veneto, molti sceglieranno le spiagge del nostro litorale, quindi Jesolo, Sottomarina e Racla Biglione, e anche perché diciamo che chi va via molto spesso ha anche la casa in queste località oppure va da amici e parenti. Mentre per quanto riguarda le altre regioni, noi registriamo da un po' di tempo una grande predilezione per la Sicilia. È chiaramente lontana, ma insomma sappiamo che le persone, soprattutto sfruttando i voli low cost o comunque anche sfruttando la vacanza last minute, che permette chiaramente di spendere meno, magari spende un po' di più per il viaggio, però sa che poi in Sicilia non costa molto né alloggiare né mangiare, quindi ed è un posto insomma che ha delle spiagge fantastiche, lo sappiamo tutti. Devo dirti che proprio è uscito il comunicato di attenzione da parte della società Autostrade, proprio perché in questi giorni, con anche la festività di Pentecoste che si fa in Croazia piuttosto che in Austria, ci sarà parecchio traffico, quindi lo diciamo, attenzione, proprio in questo fine settimana, già da domani fino anche a lunedì sono previste una serie di problematiche sulla viabilità, quindi cercate di organizzarvi bene, ecco, diciamo questo. Ecco, Francesco, questo l'abbiamo sottolineato appunto anche noi nella nostra comunicazione su questa indagine. Sarà certo un weekend da bollino rosso sulle strade, questo è poco ma sicuro, e probabilmente già da questa sera potremo già vedere alcune strade intasate, quindi insomma stiamo attenti, questo è un avvertimento che bisogna farlo sempre in queste occasioni. Noi supponiamo che questo weekend sarà veramente un weekend di grande afflusso sulle strade. Ecco, per quanto riguarda appunto poi il tipo di sistemazioni. Noi abbiamo anche cercato di capire dove andranno a dormire le persone. Il 43% secondo noi, appunto, secondo il nostro campione, alloggerà in una casa o la propria o quella di amici o quella di parenti. Il 27% sceglierà di dormire in albergo, il 22% è indeciso tra bed and breakfast, anzi andrà tra bed and breakfast o agriturismo, mentre un altro 8% sceglierà altre sistemazioni. Per quanto riguarda chi la vacanza all'estero, come detto, un po' meno gettonata, anche perché c'è da qualche anno a questa parte la paura degli attentati, e per cui ci sarà sicuramente una parte che andrà anche all'estero con una certa predilezione per la Spagna, però ecco, una parte minoritaria rispetto a chi sta in Italia. Chiaramente, Francesco, la stragrande maggioranza delle persone, continuiamo a sottolinearlo, non se ne andrà via. 3 famiglie su 4 se ne staranno, non andranno via per più giorni, però diciamo che la stragrande maggioranza opterà per fare almeno la classica gita fuori porta, soprattutto il venerdì. Ma ci aspettiamo anche sabato e domenica grande afflusso verso le spiagge, qualcosa anche verso le montagne o le zone un po' più fresche di collina. In ogni caso, come sottolineerà te giustamente, attenzione, perché sarà veramente un weekend lungo e con tanto traffico. Beh, e poi se nessuno si muove c'è sempre la possibilità magari di trovare una sagra sotto casa, perché ormai in Veneto, vero, siamo specializzati anche in questo, quindi magari una gita di pochi chilometri per andarsi a gustare qualcosa di cucinato in qualche buon stand gastronomico o di parrocchia o di qualche buona festa del territorio. Beh, approfittatene, insomma, cerchiamo di viverci questi 3 giorni ponte per molti, ma non per tutti, perché poi alcuni tipologie di lavoratori poi sabato sono a lavorare nei supermercati, nei negozi e quant'altro, quindi insomma per qualcuno il ponte c'è, per qualcun altro no. Grazie all'Adico, che ricordo ha il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate tante informazioni interessanti e i contatti per chiamare l'Adico per andare a risolvere anche qualche vostro eventuale problema. Grazie a Gianluca Codognato, buon ponte allora. E buon ponte anche a te, Francesco, grazie. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.